Sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Da 20 anni mai una qualta così. Venezia sommersa per il maltempo, blackout in alcune zone del Trentino Alto Adige. A livello locale si può fare. Il sindaco leghista di Verona, Tosi, apre alla proposta di un'alleanza col Partito Democratico del Nord. Fra poco l'intervista in XL. Volo speciale, ponte aereo per gli italiani bloccati a Bangkok, annuncia la Farnesina. Tutti i terroristi di Mumbai venivano dal Pakistan, ma Islamabad smorza la tensione con l'India. Pensiamo a collaborare. Compri domani, paghi oggi. Tra 10 giorni all'Italia passerà di mano, ma CAI sta già pagando i costi. Pronte le lettere di assunzione per i piloti. IVA dal 10 al 20% per le pay TV e Sky insorge. Concorrenza sleale. Una buona giornata da Simone Spezia ed Alessandra Tedesco. E benvenuti a questa nuova edizione del GR Extra Large. Maltempo e sciopero dei mezzi pubblici, una combinazione che sta creando molti problemi in alcune città. Particolarmente colpite dal maltempo nelle ultime ore le regioni del nord, con un peggioramento in Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Andiamo subito a Venezia, dove l'acqua alta è ai massimi dagli ultimi 20 anni e i vaporetti sono fermi per lo sciopero. Passerelle pedonali che galleggiano, rese di fatto inservibili. In mattinata è stato annunciato un massimo dell'acqua alta a 160 centimetri. È stato raggiunto? Lo chiediamo a Silva Menetto, collegata con noi da Venezia. Silva. Buongiorno, per fortuna si è fermata a 1,56 m, anche se come potete immaginare è già una catastrofe vera in città, perché tutta la città è stata sommersa e ancora adesso, se sentite il rumore di fondo, questo non è altro che il rumore delle persone che stanno camminando con l'acqua al ginocchio. Dicevo per fortuna perché il vento di scirocco si è calmato e quindi a quanto pare non dovremmo temere ancora per un deflusso che è già cominciato. Si teme piuttosto per questa sera, quando verso l'una è stata prevista un altro picco di marea a 1,15 m, e francamente siamo tutti molto perplessi, visto che il centro maree del comune aveva previsto già 1,20 m per questa mattina e siamo arrivati a 1,56 m. E poi c'è da dire che è proprio lo scandalo del trasporto pubblico in sciopero quello che più ha causato danni alla città, perché ci sono persone che addirittura sono bloccate agli imbarcaderi addirittura da questa mattina e che non hanno avuto il modo materialmente di allontanarsi, proprio per l'impossibilità tanto di andare a piedi quanto di andare con i mezzi. Non vi dico la situazione poi per quanto riguarda le spazzature, che stanno letteralmente galleggiando per tutta la città. C'è stato qualche problema anche per quanto riguarda le fognature e per il momento vi restituisco la linea. Grazie Silva per questi aggiornamenti. Intanto la situazione è critica anche in Trentino Alto Adige, dove molte scuole sono rimaste chiuse. Tre persone sono rimaste leggermente ferite su un treno della ferrovia della Val Venosta che è stato colpito da un albero caduto sotto il peso della neve. Pericolo valanghe molto forte in diverse zone della regione. Il quadro generale della situazione da Stefano Martesoni della Protezione Civile del Trentino. Abbiamo la valle di Non senza corrente elettrica e anche la valle di Segonzano, Val Floriana e tutta la zona limitrofa di Basilga di Pinè. E abbiamo molti alberi caduti sulle linee elettriche e ci sono i vigili del fuoco volontari, più o meno 200 persone impegnati nella rimozione di questi alberi sulle sedie stradali, eccetera. E stanno facendo assistenza anche all'Enel per le linee elettriche. Dal Trentino andiamo in Friuli Venezia Giulia. Dalla notte scorsa nevicate, bufere di pioggia e vento con raffiche fino a 140 km all'ora. Allagato il centro storico di Grado in provincia di Gorizia. Una tromba d'aria ha colpito questa mattina la zona di Cusano di Zoppola vicino Pordenone. Sta invece migliorando la situazione nel nord-ovest, dove comunque continua a nevicare. Andrea Ferro, collegato con noi da Genova. Com'è la situazione in Liguria? Sì, buongiorno da Genova. Un pallido sole a tratti fa capolino tra le nuvole. Per gli esperti del meteo è il segnale che in Liguria il peggio è passato. A mezzogiorno la Protezione Civile infatti ha revocato lo stato di allerta, ma è stata un'altra notte estremamente difficile. Temporale, pioggia battente lungo la costa, neve sopra i 500 metri e vento molto molto forte. Numerose frane si sono abbattute in particolare nell'entroterra, caduta di massi ed alberi, strade chiuse, tra queste anche l'Aurelia all'altezza di Zoagli. La violenta mareggiata, l'ennesima nel corso di questo autunno, ha spazzato letteralmente la costa, danni in particolare a Pegli lungo il litorale genovese. Nel corso della notte neve abbondante sulle autostrade per il nord, la A26 e la A7, su quest'ultima direttrice è la Genova-Milano, è stato temporaneamente vietato il transito ai mezzi pesanti. Lungo l'Ostura, a Dovada, al confine tra Liguria e Piemonte, intanto proseguono le ricerche del ventenne disperso da sabato notte in auto con un amico, il cui corpo è stato recuperato ieri pomeriggio. Stava attraversando un guado quando l'onda di piena del torrente li ha investiti. E per il momento da Genova è tutto, vi restituisco la linea. Grazie Andrea Ferro. Dunque, avete sentito, in Liguria ma anche nel basso Piemonte sta nevicando. Vi ricordiamo, come sempre, per avere tutte le informazioni sulla viabilità, l'appuntamento alle 13.15 con Che strada fa. Ma il maltempo sta interessando anche le regioni del centro, Simone. Sì, a Roma un violento temporale ha creato allagamenti, un albero è caduto sulla rete aerea della linea tranviaria 8 e così il servizio tram è stato bloccato. Ricordiamo che nella capitale lo sciopero dei mezzi pubblici previsto per oggi è stato rinviato. Tra l'altro, due persone di 70 anni sulla via Prenestina sono rimaste bloccate in una macchina, rischiando di affogare perché si è creato di fatto un lago. E disagi e danni anche in Emilia Romagna per le forti piogge, in particolare la linea ferroviaria Porrettana e la adiacente strada statale sono interrotte nei pressi appunto di Porretta nel bolognese per uno smottamento. In Sardegna, ad Alghero, una violenta mareggiata ha danneggiato il lungomare. L'acqua ha invaso la litoranea Alghero-Fertilia, che è stata chiusa al traffico. Adesso, Alessandra, però, da luoghi dove c'è il maltempo ci spostiamo in un luogo dove il tempo è più ameno, ma non per questo le cose vanno meglio. No, assolutamente. Infatti ci spostiamo in Thailandia. Lo sappiamo, alcuni nostri connazionali, centinaia di nostri connazionali, sono bloccati a Bangkok, non riescono a rientrare in Italia perché ci sono ancora le proteste dei manifestanti antigovernativi che stanno occupando i due scali principali di Bangkok. Ma oggi è arrivata una novità. C'è stata da poco una conferenza stampa del ministro degli esteri, Franco Frattini, l'ha seguita per noi alla Farnesina Vincenzo Miglietta. Vincenzo, che cosa ha detto il ministro? Sì, buongiorno. Oltre 1000 i nostri connazionali ancora in Thailandia. Il ministro Frattini ha comunque garantito che entro il prossimo fine settimana saranno tutti rimpatriati con voli charter e voli di linea. La priorità, ha spiegato il ministro, sarà data alle persone in palese difficoltà. Per gli altri si seguirà la cronologia originaria dei rientri. Nessuno degli italiani in Thailandia, ha garantito il responsabile della Farnesina, è in qualche modo in pericolo. La situazione è sotto controllo. Poi da Frattini l'annuncio di quanto farà il governo per evitare che situazioni simili si possano ripetere. Faremo un emendamento, ha detto il ministro, che prevede la nascita di un fondo alimentato da una piccola tassa sui biglietti aerei che coprirà le spese non previste dalle assicurazioni tradizionali in questi casi di emergenza. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta. Noi adesso ci spostiamo in India per parlare ancora degli attentati di Mumbai, dei terroristi che hanno colpito simultaneamente alcuni hotel della città indiana. Sì, uccidendo 174 persone, mettendo di fatto in scacco la polizia e l'esercito indiano. I terroristi arrivavano tutti dal Pakistan, così oggi le autorità indiane, mentre da Islamabad arrivano segnali di distensione. Io non penso che questo sia il momento per l'India o per chiunque in India di accusare il Pakistan, è il momento di lavorare con il Pakistan. Queste parole sono dell'ambasciatore pakistano a Washington. Ma perché il terrorismo ha preso di mira l'India? Intervistata da Laura Bettini, l'avvocatessa della Corte Suprema indiana, Sona Khan. Un tempo l'India era famosa per la coinvivenza di diversi gruppi religiosi. Che ne è stato di quell'armonia? Adesso ci sono gli Hindu che danno la caccia ai cristiani. Sì, è vero, ma le vittime non sono state solo cristiane, persone povere colpite in luoghi affollati, frequentate da persone di tutte le religioni. Ma questa volta è diverso. Qui c'è certamente la mano di un'organizzazione potente che probabilmente ha addestrato questa gente. È stata un'azione programmata da tempo, non è stata improvvisata. Lei pensa al Pakistan, quindi? Sì, al Pakistan o ad agenzie pakistane, difficile dirlo. Tutti abbiamo subito pensato anche che Pakistan ed India sono due potenze nucleari. La potenza nucleare, sfortunatamente, non ha nulla a che vedere con questo. Sono potenze nucleari, ma quelli che hanno fatto questo non hanno in mano la chiave delle bombe nucleari. Si tratta di agenzie diverse. In Pakistan l'esercito è completamente completamente diverso dall'ISI, servizi di intelligence, ed è l'ISI che fino a questo momento ha nutrito gruppi estremisti. Ora però forse l'armonia con l'ISI non c'è più. Forse con il nuovo governo questi gruppi non hanno più la protezione di cui godevano. Non lo sappiamo. Ma di certo ci sono persone che beneficeranno o almeno saranno soddisfatte di un eventuale collasso dell'economia indiana. E per di più questi gruppi di estremisti che via via vengono scacciati dall'Afghanistan o da altre parti del mondo, ora stanno trovando rifugio nel Kashmir e lavoro da fare in India. Quindi vede una specie di spostamento del fronte di guerra verso l'India? Se l'India pensava di non essere coinvolta in quello che accade in Afghanistan, si sbagliava, perché l'India sarà davvero molto coinvolta. Che tipo di reazione chiedono gli indiani al loro governo? Dura? Di guerra? No, vogliono la pace, ma anche sicurezza e protezione della loro vita e delle loro proprietà. Stasera a Roma l'anteprima mondiale di un progetto che riunisce grandi personaggi del cinema italiano, un progetto dedicato ad un anniversario molto importante. Era il 10 dicembre 1948 quando l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite firmò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. 30 articoli che sanciscono i diritti individuali, civili, politici, economici, sociali, culturali di ogni persona. Oggi i 30 articoli diventano 30 cortometraggi nel progetto All Human Rights for All, film collettivo con registi, sceneggiatori, attori, musicisti, maestranze e produttori del cinema italiano che hanno lavorato a titolo gratuito. Ideatore del progetto è Roberto Torelli, tra i registi Moshen Melliti, Antonello Grimaldi, Pasquale Scimeca e Giorgio Treves. L'articolo che ho scelto di illustrare è l'articolo 3, che sancisce il diritto alla vita. Tutti i diritti universali sono talmente onnicomprensivi, talmente enormi, che cercare di concentrarli in 3 minuti era una bella scommessa. E soprattutto il non cadere in qualche cosa di drammatico, di negativo, ma cercare di guardare con un occhio di speranza in avanti. Ha accettato la sfida anche un regista di commedie come Giovanni Veronesi. La sensibilizzazione in questo caso è importante, perché la cultura più si avvicina alla gente nei modi più svariati e meglio è. Il cinema è uno dei modi, e quindi io faccio il cinema divertente, quindi dovevo cercarmi un articolo che facesse, mi desse la possibilità di far ridere. E ho trovato il numero 16, che è il diritto alla famiglia. Il terzo paragrafo recita così: lo Stato ha il dovere di proteggere ogni famiglia, perché la famiglia è il nucleo fondamentale della società. Ora mi sono immaginato un disperato la cui famiglia si è sfasciata, che va davanti a Montecitorio a chiedere aiuto. Ho preso Rocco Papaleo, che c'ha il physique du rôle. L'anteprima mondiale di All Human Rights for All sarà questa sera al Teatro Argentina di Roma. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. Le 13:15, GR Extra Large, queste le notizie principali della giornata. Parte stasera il ponte aereo per il rimpatrio dei 1100 italiani dalla Thailandia, predisposto dal governo. Lo ha annunciato il ministro degli esteri Franco Frattini. Il primo volo sarà questa sera, appunto, e sarà un volo charter dell'Alitalia. Maltempo a Venezia, acqua alta come non si vedeva da 20 anni. Passerelle che galleggiano e vaporetti in sciopero. In Trentino Alto Adige, forti nevicate, alcuni blackout. Tromba d'aria in Friuli Venezia Giulia, vicino a Pordenone. Allagamenti, alberi caduti anche a Roma. Secondo il governo indiano, tutti i terroristi che hanno colpito a Mumbai venivano dal Pakistan. Si alza la tensione con Islamabad, che però promette collaborazione. Il ministro dell'interno Maroni chiude all'ipotesi di alleanze con il Partito Democratico a livello locale. La vede diversamente sulla proposta di Chiamparino il sindaco leghista di Verona Tosi. Fra poco l'intervista. Napolitano contro le riduzioni generalizzate di spesa, scegliendo di tagliare tutto nello stesso modo, ha detto poco fa il Presidente della Repubblica, si cristallizzano le tendenze peggiori. All'Italia già da oggi CAI si assumerà i costi della compagnia, ma l'acquisto sarà effettivo dal 12 dicembre. Sky protesta per la decisione del governo di alzare l'IVA dal 10 al 20% per le pay TV. Le difficoltà del Partito Democratico. Sergio Chiamparino, sindaco di Torino e ministro ombra delle riforme, chiede la riunione del coordinamento del Partito Democratico al Nord e parla, lo ha fatto ieri, di possibili intese con la Lega. A patto, dice, che la Carroccio rinunci al populismo. Il ministro dell'Interno Maroni chiude e poco fa ha detto, scusate, stiamo recuperando la notizia perché proprio di pochi secondi secondi fa, ha detto insomma che non si può fare, la Lega è forte, aumentano i consensi, non ha bisogno di nessuno, men che mai di un partito che non c'è. Ma la pensa diversamente, almeno così emerge dall'intervista realizzata dalla nostra Maria Luisa Pezzali, il sindaco di Verona, che pure è un elemento di spicco della Lega, Flavio Tosi, che invece, dicevamo, si dimostra possibilista. Sentiamolo. Si può fare, ragionarci, ovviamente è una decisione che poi spetta a Umberto Bossi, ma se c'è anche un ragionamento di livello nazionale, perché è difficile spiegare all'elettorato nostro del PD a livello locale che si porta avanti un'intesa quando a livello nazionale siamo distanti. Si sta discutendo adesso in Parlamento di federalismo fiscale, se dagli eletti del PD, quantomeno nelle nostre regioni, venisse un segnale chiaro di apertura, visto che è nell'interesse di tutte le nostre regioni, sul federalismo fiscale, allora sarebbe più semplice. Non si pretende tutta Italia, perché ci sono alcune regioni dove gli eletti di centrodestra e anche di centrosinistra spesso risentono di meccanismi di voto che devono sottostare a clientele, voto di scambio e quant'altro. Quindi è chiaro che ci sono delle posizioni trasversali, però dal Piemonte al Veneto, alla Lombardia, all'Emilia Romagna, alla Toscana, regioni che comunque storicamente sono ben amministrate, se ci fosse una trasversalità sul federalismo fiscale, allora sarebbe anche più facile a livello locale parlare con i cittadini in questo senso. Però ecco, fare una cosa locale che sia completamente disgiunta e diversa da un panorama nazionale è un po' difficile. Non si rischia di mettere in pericolo l'alleanza con il Popolo delle Libertà? Beh, io penso che questa è poi una decisione, per questo dicevo che spetta ad Umberto Bossi, però lì dipende chi ci starà. La Lega ha sempre detto che l'importante è portare a casa, perché questo serve ai cittadini di tutta Italia, il federalismo fiscale, e bisogna vedere chi concretamente ci sta. Certe volte sui progetti puoi trovare delle convergenze che vanno anche là dello schieramento, perché ripeto, purtroppo resistenze anche all'interno del centrodestra, in particolare da alcune regioni, c'è da aspettarselo che ci siano. Chiamparino pone però una condizione, dice: a patto che la Lega rinunci al populismo. Che cosa ne dice? Ma che allora Chiamparino ha le idee un po' confuse, nel senso che se oggi la Lega raccoglie il consenso assolutamente ampio in tutte le regioni, è in continua crescita, anche regioni che tradizionalmente erano schierate col centro-sinistra, è proprio perché non è populista, è molto concreta, pragmatica, e quindi raccoglie voti trasversalmente anche all'interno di un elettorato che tradizionalmente votava a sinistra. Ecco, se Chiamparino non si rende conto che la Lega non è populista, ma anzi è l'unica vicina ed esprime il popolo, e allora forse Chiamparino dovrebbe fare un bagno di umiltà e riavvicinarsi a quelle che sono le esigenze e le volontà del suo elettorato. Lei personalmente lo conosce, ha già avuto modo di confrontarsi con lui su questi temi? Sì, lo conosco e fra l'altro lo stimo, nel senso che so che è un sindaco che ha consenso da parte della sua cittadinanza, e quindi quando un amministratore riscuote consenso da parte dei suoi concittadini deve essere rispettato proprio per questo, perché vuol dire che cerca di fare al meglio delle proprie possibilità. Però ecco, se lui ritiene che le nostre posizioni siano populistiche, credo che dovrebbe un attimo rendersi conto di quali sono i problemi emergenti del nostro paese. Con chi altro del PD c'è questa comunanza di intenti, per così dire? Ma il problema appunto è vedere se c'è qualcun altro a livello nazionale che può sposare un'ipotesi così come fu proposta da Chiamparino, perché appunto, ripeto, siccome il grande tema è quello del federalismo fiscale, bisognerebbe vedere se a livello nazionale qualcuno di importante del PD può fare un'apertura vera, concreta sul federalismo fiscale. Nelle amministrazioni è comunque possibile questo discorso di trasversalità, cioè sui problemi concreti che si trovano ad affrontare le città, le province, al di là degli schieramenti? Ma guardi, io come sindaco alcuni dei provvedimenti, sono considerato uno degli sceriffi, alcuni provvedimenti, alcune ordinanze le ho mutuate da amministrazioni di centrosinistra. Quella sulla prostituzione era stata presa prima a Padova, quella sul decoro urbano e il sindaco Cacciari di Venezia. Quindi sui problemi reali, se le soluzioni sono reali e prescindono dall'ideologia. Quindi se vi dovesse arrivare un invito per un incontro, la vostra risposta sarebbe sì? Sì, ovviamente condizionata, ripeto, a una questione di scenario nazionale, che quindi dovrebbe passare attraverso dei segnali precisi da parte della dirigenza nazionale del PD al nostro Umberto Bossi, a Calderoli, ai nostri, insomma, perché, ripeto, non sono due cose che si possono distinguere, perché altrimenti l'elettorato giustamente non capirebbe, perché non puoi dire due cose simili a livello Torino, Milano, Padova, Verona, quello che è, e poi a Roma dirla e dire l'esatto contrario. Un'ultima domanda per chiudere: a gennaio il Parlamento del Nord riapre vicino a Verona, si dice che sarà lei il nuovo presidente, sul tavolo che cosa c'è? Bah, adesso si vedrà se sarò io, diciamo, l'ipotesi è stata prospettata dal ministro Maroni, lo ringrazio per questo. Se sarà confermata questa impostazione, il Parlamento del Nord potrebbe essere un buon laboratorio, nel senso che siccome il federalismo fiscale è molto articolato, è molto complesso, ha bisogno di regole precise, di sanzioni altrettanto certe per chi sgarra, e quindi servono tutta una serie di parametri, e allora mettere assieme sindaci, parlamentari, amministratori provinciali, regionali, per scrivere assieme alcune pagine della riforma federalista, questo può essere utile, perché magari dà una maggior concretezza su alcuni temi che sono ben conosciuti a livello locale, quindi potrebbe essere utilizzato il Parlamento del Nord come laboratorio di proposta per il Parlamento nazionale. Ed era Flavio Tosi, sindaco di Verona, intervistato da Maria Luisa Pezzali. Ora il viaggio di Radio 24 nelle scuole insicure. Siamo andati in Liguria, più esattamente nella provincia di La Spezia, dove sono stati segnalati alcuni edifici scolastici con problemi. Sentiamo. Ci sono alcune crepe in un locale, però sono segnalate, sono monitorate. Che l'edificio abbia bisogno di ritocchi lo ammettono anche loro, ma rassicurano sulla sicurezza gli insegnanti delle scuole Melara di La Spezia, finite nell'elenco dei bocciati da Cittadinanza Attiva. Così il vicepreside Teresa Albertini ripete che ogni problema viene sempre immediatamente segnalato in comune. Certo, altro discorso è la tempestività degli interventi, per cui ad esempio l'impianto elettrico dei laboratori multimediali aspetta ancora l'adeguamento, ma nel complesso spezzino di San Venerio, anch'esso rimandato secondo la graduatoria, dopo l'indagine gli infissi non integri sono stati già sostituiti. A Prati di Vezzano invece a spaventare soprattutto la ringhiera, con un salto di 3 metri nell'area per la ricreazione. La palestra è in un locale fatiscente e, trattandosi di una cantina, molto umido, si legge ancora nel report. Qui durante un terremoto le procedure di evacuazione non hanno funzionato, ma anche a Melara la vicepreside assicura che la sicurezza per loro viene prima di tutto. Abbiamo la scala antincendio, abbiamo l'ascensore, abbiamo la scala antiscivolo, in questo edificio, che è un edificio insomma non nuovissimo, gli interventi di adeguamento alla legge 626 sono sempre stati fatti. Raffaella Calandra, GR24, il Sole 24 Ore. Dalla Liguria andiamo in Sicilia, più precisamente a Lampedusa. Parliamo di Rosina Costa, 90 anni, 10 figli, 22 nipoti. Alessandra, una tranquilla nonna, casa e chiesa? No, per niente, anzi è la più famosa DJ di Radio Delta Lampedusa, dove conduce ogni sabato la seguitissima trasmissione Le Tagliatelle di Nonna Rosa, che a quest'ora insomma suscita anche un certo appetito. Sì, assolutamente. Tra l'altro, se volete ascoltare la trasmissione, insomma, la radio anche via web, insomma, quindi si trova su internet. Magari dopo la fine di XL, però. Magari dopo la fine di XL, assolutamente sì. I suoi ascoltatori, Nonna Rosa dà ricette e consigli per cucinare, racconta episodi della sua vita, come quando durante la guerra fu trovata priva di sensi a Favignana e rimase in coma per 3 mesi. Il suo cantante preferito, manco a dirlo, Gianni Morandi. Paolo Panciari l'ha intervistata, sentiamola. Di nuovo in diretta, dobbiamo salutare Concetta e la bambina, mi hai detto, mi hai ricordato? Salutala, dai, puoi farlo, c'è il microfono aperto. Ciao Concetta! Veramente è stato un mio nipote lì, Messini, Nicola, e ha voluto postarmi lì così, e poi ho cominciato a continuare a andare e mi sono trovata bene. Abbiamo un buonissimo risotto con la verza per 4 persone. Allora, io do gli ingredienti e poi tu dai la solita preparazione. Un po' di ricette di mangiare, sia siciliane, sia piemontese, insomma. Aggiungendo un rametto di rosamarina. Quindi aggiungete la verza tagliata fine. Fina. Insomma, qualche cosa di bello, sempre dice. Della mia vita, tutto quello che ho passato durante la guerra, insomma, un po' di tutto. Della mia salute, quello che ho passato. Le tagliatelle di Nonna Rosa, perché ha questo titolo la sua trasmissione? Perché le so fare bene, faccio le tagliatelle speciali. E mi domandano, ma come lei così, che sa cucinare bene? Perché io ho 10 figli e 22 nipoti, insomma, quando vengono qui all'estate io faccio sempre da mangiare. Insieme, infine, aggiungete in una bella manciata di parmigiano. GR Extra Large, queste le principali notizie della giornata. Parte stasera il ponte aereo per il rimpatrio dei 1100 italiani che si trovano in Thailandia, lo ha annunciato il ministro degli esteri Franco Frattini. In 4 giorni, fa sapere il titolare della Farnesina, dovrebbero rientrare tutti. Maltempo a Venezia, acqua alta come non si vedeva da 20 anni, passerelle che galleggiano, quindi di fatto inservibili, vaporetti in sciopero. In Trentino Alto Adige, forti nevicate, alcune blackout, tromba d'aria in Friuli Venezia Giulia vicino a Pordenone, allagamenti, alberi caduti anche a Roma. Secondo il governo indiano, tutti i terroristi che hanno colpito a Mumbai venivano dal Pakistan. Si alza la tensione con Islamabad, Islamabad che però la smorza promettendo collaborazione. Il ministro dell'interno Maroni chiude all'ipotesi di alleanze con il Partito Democratico a livello locale. La proposta era stata avanzata dal sindaco di Torino Chiamparino. Napolitano contro le riduzioni generalizzate di spesa, scegliendo di tagliare tutto nello stesso modo, dice il presidente, si cristallizzano le tendenze peggiori. All'Italia già da oggi Sky si assumerà i costi della compagnia, ma l'acquisto sarà effettivo dal 12 dicembre. Sky protesta per la decisione del governo di alzare l'IVA dal 10 al 20% per le pay TV. Avete sentito poco fa anche dalle nostre notizie riepilogo. A partire da oggi la CAI si assume i costi di Alitalia, e quanto ha detto il commissario straordinario di Alitalia Augusto Fantozzi. Teoricamente, lo ricordiamo, CAI avrebbe dovuto prendere il volo oggi, ma per una serie di problemi e di ritardi l'avvio della nuova compagnia è slittato al 12 dicembre. I piloti stanno per ricevere le lettere di assunzione da CAI, ha aggiunto Fantozzi. Replica il leader dei piloti dell'ANPAC, Fabio Berti. Non sono mai arrivate le lettere per la cassa integrazione né quelle di assunzione. Passiamo ora a parlare del pacchetto anticrisi del governo. Secondo alcune anticipazioni diffuse poco fa, aumenteranno i controlli sulle grandi aziende, quelle con un fatturato non inferiore a 300 milioni di euro. Si tratta in pratica di circa 1000 aziende per le quali cresceranno i controlli IRPEG e IVA. Ma c'è un altro aspetto particolare di questo provvedimento del quale ci vogliamo occupare adesso, che è quello che ha suscitato polemiche, insomma, l'avrete lette anche sui giornali oggi, e fa riaprire il dibattito sul conflitto di interessi, ossia l'innalzamento dell'IVA sull'abbonamento alle pay TV dal 10 al 20%. Sky protesta, una tassa contro di noi e contro 4 milioni e mezzo di famiglie. Tra l'altro ci giunge notizia che ha iniziato a mettere in onda un promo in una fase di crisi economica. Dice: i governi lavorano per trovare una soluzione che aumenti la capacità di spesa, il governo italiano va nella direzione opposta. Allora vediamo di fare chiarezza su tutta questa vicenda con Marco Mele, collega del Sole 24 Ore. Allora Marco, che cosa c'è dietro la scelta del governo? Dietro ci sta ovviamente la volontà di trovare risorse, in questo caso abolendo un incentivo, un privilegio che era stato dato, per attenzione, non a Sky, era stato dato a tutta la Pay TV nel 95, e poi nel 97 è stato precisato Sorelli del Capo, quando il digitale terrestre non c'era, quindi non era un privilegio di Sky verso il digitale terrestre, era un incentivo dato a suoi tempi per far diffondere la Pay TV in Italia. E qui, adesso chiaramente è chiaro che non è che il conflitto di interesse non esista, per cui è chiaro che esiste anche il fatto che si interviene sulle quote di mercato, sulla competitività dei singoli soggetti con un intervento del governo, che in sé però può essere giustificato dal fatto che era un privilegio che gli altri tutti pagano l'IVA al 20%, e adesso li paga al 20%. È un discorso che fia da una parte e dall'altra. Secondo me la sintesi di tutto però è che nel mercato televisivo non c'è competizione né sul versante satellitare e pay e né sul versante della TV generalista, e quindi un intervento del governo è uno dei pochi che possa in realtà modificare e distorce le quote di mercato. Ecco Marco, ma questa decisione secondo te peserà sul numero di abbonati di Sky o solo sul portafoglio di chi è già abbonato? Penso su entrambi, perché bisogna vedere se Sky chiederà un abbonamento intorno al 10% a tutti gli attuali abbonati o se li chiederà ai nuovi abbonati. Se li chiederà a tutti gli attuali abbonati, secondo me potrebbe aumentare parecchio anche le disdette degli abbonamenti e quindi avere un'ulteriore incidenza sulle casse di Sky oltre alle due misure varate dal governo. Ma non c'è dubbio che a quel punto, ovviamente, se c'è l'aumento degli abbonamenti, pesa ulteriormente anche sulle tasche degli abbonati, che ripetiamo sono 4,6 milioni, non 100.000. Quindi pesa un po' su tutte le tasche, sia di Sky sia di abbonati. Certo, grazie allora a Marco Mele del Sole 24 Ore per averci aiutato a capire un po' di più di questa vicenda. Ma noi continuiamo a parlare del pacchetto anticrisi, Simone. Sì, perché questa mattina ci sono le riunioni delle segreterie di CGIL, CISL e UIL, anche insomma per dare un giudizio un po' più completo, al di là di quelli a caldo, sul pacchetto. Ce ne parla in diretta da Roma Andrea Viali. Andrea. Sì Simone, la riunione più attesa è quella probabilmente della segreteria della CGIL, perché oltre ad analizzare in modo dettagliato le misure anticrisi varate dal governo, dovrà decidere anche, dovrà formalizzare lo sciopero generale indetto per il 12 dicembre, sciopero al quale, lo ricordiamo, non aderiscono invece gli altri due sindacati, CISL e UIL. Per quanto riguarda il decreto anticrisi, il primo giudizio espresso a caldo venerdì dal segretario generale della CGIL, Epifani, è stato negativo. Epifani aveva parlato di occasione mancata e di provvedimento che non risolve le difficoltà delle famiglie, dei pensionati e dei lavoratori dipendenti. Meno negativo invece è stato il giudizio della CISL e della UIL, che oggi riuniranno rispettivamente la segreteria e la direzione. Il bicchiere è mezzo pieno, era stato il primo commento del numero uno della UIL, Angeletti, mentre la CISL ha giudicato in modo positivo soprattutto l'estensione degli ammortizzatori sociali prevista dal pacchetto anticrisi. Però è tutto. Grazie Andrea Viali. Ha parlato di crisi questa mattina anche il Presidente della Repubblica Napolitano a Pomigliano d'Arco, provincia di Napoli. Inizialmente aveva definito la crisi finanziaria un momento difficile, poi insomma si è corretto e ha precisato: definirla un momento sarebbe un modo di sottovalutarla. E poi, scendendo un po' più nel dettaglio, ha detto: scegliere di tagliare in modo più o meno uguale tutte le voci di spesa produce la conseguenza di cristallizzare le peggiori tendenze che si sono sedimentate nella spesa pubblica e nel bilancio dello Stato. Queste le parole di Napolitano. Giulia Crivelli, molta economia e molte cronache dalla difficile situazione finanziaria anche sulle pagine dei giornali stranieri. Iniziamo dalle Figaro, Giulia. Sì, Le Figaro è uno dei principali quotidiani francesi. Oggi ha questo titolo a tutta pagina perché il Bruxelles potrebbe ostacolare il piano di salvataggio delle banche francesi. Il problema è che, diciamo, ogni paese, come spiegavate anche voi, ha scelto di dare delle priorità. Quella di Parigi, per esempio, appunto, aveva varato un piano di sostegno agli istituti bancari, un piano da 10,5 miliardi di euro. Potrebbe essere una violazione delle leggi comunitarie sulla concorrenza e quindi essere anche caratterizzati come aiuti di Stato, quindi illegali per le leggi di Bruxelles, e per questo potrebbe essere bloccato da Bruxelles. Sappiamo però, e questo lo si legge tra le righe anche nell'articolo di Le Figaro, quanto in questo periodo Bruxelles sia disponibile in realtà a fare delle eccezioni alla regola, quindi sicuramente era giusto far notare che secondo le regole attuali questo piano di sostegno alle banche non è corretto, non è detto però che poi veramente la Bruxelles intervenga. Giulia, a proposito di crisi e di questo periodo, ovviamente l'attenzione è sempre puntata verso il Natale, ci si chiede insomma i consumi riusciranno a riprendersi almeno in vista delle festività natalizie. In questo senso oggi il New York Times ci dice qualcosa di importante. Sì, fa un bilancio sul cosiddetto Black Friday, che è il venerdì che segue il giovedì del Thanksgiving, cioè venerdì scorso. È sempre un test importantissimo, è il primo venerdì ma anche il primo weekend di shopping natalizio. Molte persone proprio fanno il grosso dello shopping perché è un weekend lungo, no? C'è giovedì di festa, venerdì di festa. è stato effettivamente c'è stato il più grande numero di vendite di clienti nei negozi da quando si registra, quindi questo sembrerebbe un dato molto positivo. In realtà, se si va a vedere il valore di quello che è stato acquistato, è molto più basso dell'anno scorso, perché ci sono stati degli sconti incredibili, da Neiman Marcus, che è un department store di altissimo livello, alle catene anche di moda, di fast fashion. Quindi per attirare i clienti sono stati abbassati moltissimi prezzi. Però la gente è andata a fare acquisti. La gente è andata, sì. Il New York Times dice, diciamo, se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, vuol dire che comunque la gente ha speso quel poco che aveva, e se vogliamo vedere il bicchiere mezzo vuoto è che alla fine i bilanci delle catene, quando guarderanno che cosa hanno in cassa, saranno meno soddisfacenti degli anni scorsi. Grazie Giulia Crivelli, ci risentiremo naturalmente domani con te per parlare ancora dei quotidiani stranieri in edicola. E adesso noi passiamo a parlare di un luogo dove non ci vogliono tanti soldi per mangiare, visto che siamo più o meno in tema. Sentiamo il consiglio di questa settimana del nostro Davide Paolini. Mezzogiorno di Cuoco oggi vi porta a Mantova, nel quartiere Borgo Chiesanuova, nel circolo Arci Cinciana, gestito da Franco Panza. Ebbene, si parla sempre di low cost, ma molte volte low cost coincide con una cucina che sicuramente non è all'altezza. Qui invece è low cost con una grande cucina. Il pane e mortadella, così come entrée, rimangono sempre un pane, devo dire, straordinario, veramente che si mangia in pochi posti. Ebbene, dicevo che il menù è molto variabile, però magari io vi leggo il menù di una giornata: trippa classica, zuppetta d'agnello e castagne, le fave con le cotiche, tartare di cavallo, rognoncini di vitello trifolati, seppie nere con polenta bianca, spezzatino di cavallo con polenta, baccalà mantecato, costa di bue, costolette d'agnello e poi ancora purè di patate davvero buono, e per finire la sbrisolona. Lo ripeto, Arci Cinciana, in quartiere Borgo Chiesanuova di Franco Panza. Arrivederci alla prossima puntata. GR Extra Large, queste le notizie della giornata. Napolitano contro le riduzioni generalizzate di spesa, scegliendo di tagliare tutto nello stesso modo, dice il presidente, si cristallizzano le tendenze peggiori. Sky protesta e mette in onda un promo contro la decisione del governo di alzare l'IVA dal 10 al 20% per le pay TV. L'incasso per lo Stato sarà di 270 milioni di euro a regime. Parte stasera il ponte aereo per il rimpatrio dei 1.100 italiani che si trovano in Thailandia, lo ha annunciato il ministro degli esteri Franco Frattini. In 4 giorni, ha fatto sapere anche il titolare della Farnesina, dovrebbero rientrare tutti. Maltempo a Venezia, acqua alta come non si vedeva da 20 anni, vaporetti in sciopero tra l'altro, la neve come avete sentito poco fa è iniziata a cadere anche in provincia di Varese, ci sono problemi su alcune autostrade. In Trentino, Alto Adige, forti nevicate da ieri sera e alcuni blackout, tromba d'aria in Friuli Venezia Giulia vicino Pordenone, allagamenti, alberi caduti anche a Roma. Secondo il governo indiano, tutti i terroristi che hanno colpito a Mumbai venivano dal Pakistan, si alza la tensione con Islamabad che però promette collaborazione. Il ministro dell'interno Maroni chiude all'ipotesi di alleanze con il Partito Democratico a livello locale, l'idea era stata lanciata dal sindaco di Torino Chiamparino, la vede invece diversamente il sindaco leghista di Verona Tosi. All'Italia già da oggi CAI si assumerà i costi della compagnia, ma l'acquisto sarà effettivo dal 12 di dicembre. Primo dicembre, oggi è la giornata mondiale contro l'AIDS. Nel mondo sono più di 33 milioni le persone colpite dal virus. Ogni giorno si aggiungono 7.500 nuovi casi. Basti pensare che solo nel 2007 la malattia ha causato 2 milioni di morti. Questo secondo il rapporto globale sull'AIDS redatto dalle Nazioni Unite. Per quanto riguarda il nostro paese, dai dati dell'Istituto Superiore di Sanità, risulta che ogni anno ci sono 4.000 nuovi casi di infezione e se la regione più colpita in assoluto è la Lombardia, nell'ultimo anno è aumentato il numero di casi nel Lazio. Ma come si sa, l'emergenza ormai negli ultimi anni si sta concentrando in Africa. Ci vuole una rivoluzione culturale, dice Marco Cernuschi, medico che lavora da anni in Africa, attualmente responsabile del progetto CESVI di lotta all'AIDS in Zimbabwe. L'ha intervistato Laura Bettini. Noi stiamo proprio cercando di agire a quel livello, anche se sarà un cammino molto lungo. Ci sono anche dei modelli culturali che sono difficili da cambiare, per dire l'uso del preservativo è molto male accettato e quindi si sta introducendo con molta lentezza. Se lei avesse la bacchetta magica, diciamo, che cosa vorrebbe avere a disposizione durante il suo lavoro in Zimbabwe? La possibilità possibilità di raggiungere il maggior numero di popolazioni e soprattutto se vorrei che ci fosse la recettività e la voglia, la disponibilità a capire qual è il problema, le dimensioni esatte del problema. Disponibilità, dice, da parte del governo dello Zimbabwe? Il governo dello Zimbabwe, diciamo, è un governo che, nonostante le grosse difficoltà finanziarie, cerca di collaborare nei limiti del possibile. Quindi la consapevolezza di cui lei parla dovrebbero averla gli altri paesi, il mondo, diciamo. Esatto, esatto. Questa collaborazione, vedo, sta dando i suoi frutti, perché i numeri restano drammatici, ma è in miglioramento in Zimbabwe. Sì, quello senz'altro ci sono stati, perché il 15% di adesso era oltre il 20-25% di alcuni anni fa. E poi soprattutto il settore dove noi stiamo lavorando più attivamente è sulla prevenzione della trasmissione del virus dell'AIDS da madre sieropositiva al neonato. È il settore dove abbiamo ottenuto forse i risultati migliori. Negli ultimi anni oltre 2500 bambini sieronegativi nati da madre sieropositiva. Il traffico, ve ne parlavamo poco fa, che sembra essere un problema particolarmente sentito curiosamente in Dubai. E così le autorità hanno trovato una soluzione alquanto originale, sentite quale? Agli immigrati stranieri che non hanno un titolo di studio pari almeno alla laurea universitaria, niente patente di guida. Lo hanno deciso le autorità degli Emirati Arabi per risolvere il problema del traffico che affligge il loro paese. Non solo, ma come riferisce oggi la TV satellitare all'Arabia, infermieri, cuochi, giardinieri e sarti, che costituiscono l'ossatura dei lavoratori asiatici del ricco emirato, dovranno disfarsi anche delle loro auto vecchie. E per placare le proteste popolari è intervenuto l'emiro in persona, che ha ordinato la sospensione della parte del provvedimento che riguarda la rottamazione di 144.000 auto immatricolate prima del 1990. Nulla da fare invece per i laureati, poveri ben inteso, a loro verrà comunque ritirato il permesso di guida. Nadif Kahali, GR24, Il Sole 24 Ore. Anche la Camorra può essere imprenditrice. Fa luce sulle infiltrazioni del clan dei Casalesi negli affari di Emilia, Lombardia e di altre zone d'Italia. Il libro di Rosaria Capacchione, L'oro della Camorra, presentato oggi dalla stessa autrice. L'ha intervistata Francesca Maraguti. Come dice il titolo, parla di soldi, parla degli affari, gli interessi economici del clan dei Casalesi. Ce n'è una che fa da filo conduttore, è l'ultima inchiesta che ha portato alla condanna in primo grado, non ancora definitiva, di un imprenditore di Parma, che è il primo imprenditore che è stato condannato per associazione camorristica. Da questo però si sviluppa in avanti e indietro intorno a tutti gli altri affari del clan. Come si è potuti arrivare a quel tipo di indagine e che cosa c'era prima e cosa potrebbe esserci dopo. Lei ricostruisce una camorra che è molto infiltrata nell'impresa e anche nell'impresa del nord. Questa non è una novità però, io ricostruisco questa impresa ma attraverso indagini della magistratura, alcune delle quali sono riferite a fatti molto vecchi e che si sono già concluse molti anni fa, ma che hanno fatto, diciamo, da sfondo ad altre indagini. Almeno noi le conoscevamo, noi in Campania, non so nel resto d'Italia. Lei vive sotto scorta, ha subito anche degli attacchi, pensa comunque che valga la pena di raccontare questa storia anche a costo di questi rischi? Penso che ognuno di noi, quando sognava di fare giornalista, sognava di fare inviato di guerra, no? Facciamo che sono rimasta ragazzina. Ti sento un'omologa di Saviano? No, io mi sento una giornalista che fa il suo lavoro, punto e basta. Non sono una scrittrice in aggiunta. L'oro della Camorra è la storia di una giustizia che vince o è la storia di una sconfitta? No, è una storia di processi, non è storia né di sconfitte né di vittorie. È un campanello d'allarme forse per gli altri. Guardate che il pericolo è alle porte, voi ce l'avete anche in casa, non ve ne siete ancora accorti. Attenti, perché rischiate di fare la stessa fine dell'altra parte d'Italia. È arrivato il momento del Dizio Radio. Direi oggi, siccome ultimamente ci siamo occupati qui a Dizio Radio di termini economici, finanziari, insomma di economese, questa volta invece vorrei concentrarmi su un termine legato alla giurisprudenza, che è semilibertà. Si parla molto di processi mediatici, soprattutto negli ultimi giorni, e a volte ci sono grosse polemiche, per esempio quando appunto si parla di semilibertà, cioè di quel regime che consiste nella concessione a un condannato di trascorrere parte della giornata fuori dal carcere per seguire attività lavorative o istruttive o di altro tipo, insomma per un reinserimento sociale. Ma come regolamentata questa semilibertà, che in tanti casi crea anche polemiche, ultimamente proprio per Pietro Maso, ve lo ricordate che nel 91 vicino Verona aveva ucciso entrambi i genitori con l'aiuto di tre amici. Sempre a chiarirci le idee c'è Giuseppe Busia, giurista, studioso di diritto costituzionale ed esperto del Sole 24 Ore. Sì, è una, appunto, come dicevi, una misura alternativa al carcere. Invece di scontare la pena in carcere, si consente, sulla base di alcuni requisiti, di trascorrere una parte del giorno per, appunto, andare a lavorare, seguire dei corsi di istruzione, comunque per garantire il reinserimento sociale. Ci sono altre misure alternative che sono l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare. Come funziona la semilibertà, che è la più discussa? Possono accedervi alcuni detenuti che hanno da scontare un residuo di pena più o meno ampia a seconda della condanna e che dal punto di vista soggettivo hanno dimostrato o la volontà di reinserimento o proprio hanno compiuto dei progressi che vengono valutati come segno della disponibilità a reinserirsi. Bisogna tenere presente che tutta la detenzione in carcere serve alla rieducazione del condannato, al reinserimento sociale, e l'ordinamento valuta che in certi casi, quando appunto ci sono questi requisiti, lo stare in carcere può fare più male che bene. Anche se, Giuseppe, le polemiche ci sono soprattutto in caso di crimini efferati come quello di Pietro Maso, oppure di qualcuno che poi in regime di semilibertà compie dei delitti. Sì, capita che queste persone magari compiano dei delitti e si dice: ma perché non stanno in carcere? In realtà i casi che vanno sui giornali sono una percentuale molto limitata rispetto ai tanti casi in cui funziona. E poi appunto l'idea è quella che il carcere, la pena, serve poi a rieducare, quindi si è compiuto il fine della pena. Questo però è possibile solo in caso in cui sia stata scontata una parte della pena, ci siano degli elementi tali che fanno capire, sono vagliati dal tribunale di sorveglianza, che fanno capire che il detenuto non dovrebbe compiere altri reati, quindi si sia reinserendo. Ovviamente ci sono le eccezioni, ma queste non fanno la regola. Grazie Giuseppe Busia, quindi abbiamo chiarito il termine di semilibertà. Roberta Giordano vi dà appuntamento col prossimo Dizio Radio a lunedì. Da 20 anni mai una qualta così, Venezia sommersa, neve e blackout in Trentino Alto Adige. Napolitano contro le riduzioni generalizzate di spesa, scegliendo di tagliare tutto nello stesso modo si cristallizzano le tendenze peggiori. IVA dal 10 al 20% per le pay TV, Sky insorge concorrenza sleale e mette in onda uno spot contro il governo. Volo speciale da stasera ponte aereo per gli italiani bloccati a Bangkok, annuncia la Farnesina. Compri domani, paghi oggi. Tra 10 giorni all'Italia passerà di mano, ma CAI sta già pagando i costi. Pronte le lettere di assunzione per i piloti. A livello locale si può fare. Il sindaco di Verona Tosi apre alla proposta di un'alleanza col Partito Democratico del Nord, avanzata da Chiamparino, ma per Maroni non è un'ipotesi da considerare. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large, condotta e curata da Simone Spezia ed Alessandra Tedesco, coordinata da Daniele Biacchessi e con in regia Fabio Cantadori. Se volete scriverci, extralarge@radio24.it. È tutto, vi lasciamo da Tempo di Sport. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.